Il diffamatore. Meccana numero 32, di 9 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Guai ad ogni diffamatore maldicente. Che accumula la ricchezza e le conta. Pensa che la sua ricchezza lo renderà immortale? No, sarà certamente gettato nella voragine. E chi mai ti farà comprendere cos'è la voragine? È il fuoco utilizzato di Allah che consuma i cuori. In vero si chiuderà su di loro. In estese colonne.